Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Avete fatto a voi a scuola economia domestica? Io no, lo confesso. Sì, ora lo so che si tratta di una materia che un tempo alle scuole medie facevano solo le femmine. Loro imparavano a cucinare e a stirare, mentre i maschi, armati di seghetto, erano intenti a costruire nell'aula di educazione tecnica inutili cassette per uccelli incompensato. Ma da bambino, quando sentivo parlare di economia domestica, pensavo allo studio delle entrate e delle uscite finanziarie interne a una famiglia. Già mi immaginavo i problemi. Se papà guadagna 1 milione al mese e la mamma spende 100.000 lire al mese dal fruttivendolo, quanti soldi avanzano? Peccato che il termine economia derivi dal greco e abbia tutto un altro significato. Oikos nomia, gestione della casa. La casa. L'economista perfetta è la casalinga di Voghera, quella capace di amministrare bene il focolare domestico. E dunque, per similitudine, chi gestisce bene, disponendo al meglio delle risorse e delle capacità di ciascuno, il proprio paese, il proprio villaggio, la propria città. Per noi, però, l'economia è solo legata alla finanza, ai soldi che girano. La crisi degli ultimi anni, nata sui giochi di borsa ma arrivata presto anche nella realtà, ci fa capire quanto forse dovremmo tornare all'economia reale, un'economia che sia gestione oculata e saggia delle ricchezze e delle risorse, come farebbe una brava mamma. Ma possiamo ripensare a un'economia su misura di famiglia, su misura di città, un'economia familiare, un'economia civile? Dalla Caritas in Veritate. Quando la logica del mercato e quella dello Stato si accordano tra loro per continuare nel monopolio dei rispettivi ambiti di influenza, alla lunga vengono meno la solidarietà nelle relazioni tra i cittadini, la partecipazione, l'adesione, l'agire gratuito, che sono altra cosa rispetto al dare per avere proprio della logica dello scambio e al dare per dovere proprio della logica dei comportamenti pubblici imposti per legge dallo Stato. La vittoria sul sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura, in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione. Il binomio esclusivo mercato-Stato corrode la socialità, mentre le forme economiche solidali, che trovano il loro terreno migliore nella società civile senza ridursi ad essa, creano socialità. Il mercato della gratuità non esiste e non si possono disporre per legge atteggiamenti gratuiti. Eppure, sia il mercato sia la politica hanno bisogno di persone aperte al dono reciproco. Le attuali dinamiche economiche internazionali, caratterizzate da gravi distorsioni e disfunzioni, richiedono profondi cambiamenti anche nel modo di intendere l'impresa. Vecchie modalità della vita imprenditoriale vengono meno, ma altre promettenti si profilano all'orizzonte. È con noi in collegamento telefonico Alberto Lanzavecchia dell'Università di Padova, collaboratore del Centro Toniolo. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Possiamo lasciarci alle spalle l'economia per come l'abbiamo intesa e pensare a un'economia civile? Esistono già dei modelli di riferimento? Certo che esistono, anzi abbiamo l'orgoglio direi di avere il modello dei francescani, quindi risaliamo al Medioevo come un modello di economia civile, nel senso di economia dove il mercato è solo un luogo, non solo un luogo degli scambi, dove i mercanti di allora e diciamo gli imprenditori di oggi vendono beni e servizi, ma è anche il mezzo nel quale si ridistribuisce all'interno dei cittadini il benessere e il progredire del bene comune che deve essere ridistribuito. In fondo, se pensiamo ai francescani, era anche un periodo nel quale si muovevano le prime banche, che da Bernardino da Feltre furono così ipotizzate proprio per utilizzare il mercato di raccolta e di impiego, ma al servizio produttivo. Non è altro che in fondo quello che era già scritto nelle parabole dei talenti, non so se vi ricordate la parabola dei talenti o delle mine, a seconda se è il Vangelo di Matteo o di Luca, ma la parabola ci insegna che l'uso improduttivo del denaro viene punito. Quindi il denaro deve essere utilizzato, deve essere investito, ma investito per la società e non per il mero profitto. Sì, esiste, lei ha ricordato la tradizione dei francescani, esiste una ricca tradizione italiana sullo studio dell'economia civile. Penso all'abate Antonio Genovesi, che era scrittore, filosofo ed economista. Cosa ci può raccontare di questo autore del Settecento? Ah, che bello, lei cita Genovesi proprio nell'anno in cui ricorrono i 300 anni della sua nascita, perché nacque in provincia di Salerno proprio nel 1713. E beh, lui tra l'altro fu anche il primo a insegnare in una cattedra di economia che fu tra l'altro sponsorizzata da un mecenate nel 1754. Ebbene, Genovesi nacque da famiglie umili, il padre calzolaio, e visse fin da subito un'ingiustizia, che fosse anche simpatica da ricordare. Lui si innamorò di una ragazza, di quale evidentemente avrebbe poi voluto sposarla, ma siccome il padre non la riteneva degna del proprio figliolo, fece in modo che la ragazza si sposasse con un pastore locale. E lui quindi fu addirittura poi allontanato dalla zona e fu mandato a studiare a Napoli. Questa ingiustizia non so se quanto lo segnò, però evidentemente fu tutto un percorso che poi lo portò non solo a insegnare etica e filosofia, ma quasi al culmine della sua carriera, anzi addirittura pochi anni, non poteva certo saperlo, prima della sua morte, che avverrà insieme nel 69, ecco, comunque nel 65 lui scrive un libro che è fondamentale per la storia dell'economia e tratta proprio dell'economia civile. L'economia civile si potrebbe dire quasi che è il luogo che riprende alcuni concetti sicuramente francescani, ma è portato più avanti, perché ormai siamo nel periodo dell'illuminismo, siamo nel periodo in cui c'era uno Stato forte, quindi come conciliare bisogni privati, bisogni pubblici e quindi l'interesse del singolo con l'interesse della collettività. E sono temi affascinanti che furono portati avanti proprio da Genovesi. Però visto che rimaniamo in tema francescano, c'è anche un passaggio che secondo me è simpatico ricordare. Genovesi, io ricordo ai miei studenti a volte un estratto. Lui dice che il mutuo è un contratto di pura beneficenza e di sincera amicizia, quindi insomma è un beneficio. I benefici non si possono apprezzare col valore, non si può dare un interesse. E chi esige un interesse da un mutuo distrugge il beneficio, insomma converte l'amicizia e l'umanità in una mercanzia, e facendo così distrugge i valori dell'uomo e quindi va contro la natura lo va contro qualcosa di così intimo e prezioso. Esatto. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Siamo pronti a farci male per difendere un'idea. Forse abbiamo un po' paura, ma non molliamo mai. Siamo dei, dei santi. Siamo noi. Siamo piccoli già grandi. Siamo dei, dei santi. Siamo noi. Siamo piccoli già stanchi. Siamo sempre più sinceri se diciamo una bugia, perché ci copiamo i sogni, i vestiti e le pazzie. Siamo dei, dei santi. Siamo noi. Siamo piccoli già grandi. Siamo dei, dei santi. Siamo noi. Siamo piccoli già stanchi. Siamo quello che ci dice la TV. Siamo quelli che non ci parliamo più. Siamo noi il futuro. Siamo i vostri sbagli. Ma quanto freddo al cuore la notte dentro. città. Siamo dei, dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi, siamo dei, dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stati. Cartelloni per la strada che ti dicono chi sei, lattici a colori, anche al gusto di caffè, siamo dei, dei santi, siamo noi, siamo piccoli già grandi, siamo dei, dei santi, siamo noi, siamo piccoli già stanchi, siamo quello che ci dice la TV. Siamo quelli che non ci parliamo più. Siamo noi il futuro, siamo i vostri sbagli. Ma quanto freddo al cuore la notte dentro ai bar, e quante sigarette in più. Entriamo con la luna e usciamo che c'è già il sole sopra la città. Siamo dei, Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, al bene di tutti parliamone. Siamo in collegamento con Alberto Lanzavecchia dell'Università di Padova, collaboratore del Centro Toniolo. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Prima ricordava Genovesi come dicesse che chiedere interessi su un mutuo fosse andare contro un rapporto di amicizia, di umanità, insomma andare contro proprio allo stesso genere umano. In questi anni però la finanziarizzazione dell'economia si è sviluppata e ha prodotto gli effetti che abbiamo visto. Fanno un po' a cazzotti le idee di finanziarizzazione dell'economia e di economia civile. E come possiamo superare questa fase di stallo? Ma guardi, la finanza, come ci ha ricordato Papa Benedetto XVI, è un mezzo, è neutro rispetto a ciò che muove l'uomo. Quindi non esiste una finanza buona o una finanza cattiva, esistono uomini buoni e uomini, se vogliamo, cattivi. Quindi non direi che esista una finanza civile messa in contrasto con una finanza del genere. Dovremmo quindi domandare in realtà l'economia, l'uomo, il mercato, gli strumenti che utilizza, verso a quale fine li sta usando. Quindi la mia preoccupazione non è tanto quella di introdurre nuovi strumenti finanziari, nuove banche, nuove regolamentazioni, ma è agire nelle coscienze degli uomini. Se l'uomo persegue obiettivi individuali, il rischio è quello dell'avidità e di portarci molto lontano invece rispetto al bene comune. Quindi insomma più che i modelli si parla proprio di etica dell'uomo. Assolutamente, la finanza, ma anche i mercati, qualsiasi strumento, ma anche una banca, che non è altro che un insieme di contratti, un'impresa, un insieme di contratti, è neutra rispetto agli uomini che poi la utilizzano. Ma quindi più che insomma dei modelli esistono delle pratiche. Esistono delle pratiche di economia civile, come la potremmo chiamare, anche nell'oggi? Ecco, è proprio questo il punto. Le pratiche sono fatte dalla volontà dell'uomo che diventa un'azione. E quindi è proprio sulle pratiche che dobbiamo domandarci se esiste un modo di usare la finanza e usare i mercati in modo diverso. Ebbene, per fortuna la buona notizia è che esistono. Ho in mente ad esempio il commercio equo e solidale, quello che trovate in qualche scaffale anche dei supermercati, il fair trade, è quindi un modo per dire, nel momento in cui io scambio sul mercato un bene, che sia il caffè o che sia lo zucchero, non solo faccio un'utilità mia personale, ma viene redistribuita e penso ad un altro che magari è laggiù nel sud del mondo e dal mio scambio sul mercato ne trae beneficio. Penso al microcredito, nel quale noi possiamo depositare i nostri soldi nelle banche, ma so che verranno utilizzate chissà dove là nel mondo per averne un'utilità. In fondo tutte le banche etiche che si raggruppano in Europa sotto anche delle associazioni di categoria o addirittura nel mondo, si sono riunite a Berlino qualche giorno fa, hanno fatto questo spirito, cioè dove l'investimento, pensandolo alla francescana, è produttivo e forse anche genovesi sarebbe d'accordo, perché è come dare un valore al, che non sia monetario, ma pensare a che uso ne faccio, a che faccio del denaro. Quindi per fortuna esempi concreti ci sono e sono anche in crescita e quindi dimostrano che sono sostenibili. Penso alle buone pratiche che possono venire diffuse per contagio, per imitazione. Assolutamente, è questo un po' il grande ruolo che proprio genovesi, ma in fondo anche la dottrina sociale della Chiesa ci insegna, insomma l'uomo va educato, va guidato, va portato verso una strada che poi alla fine renderà noi tutti più felici, più vicini in un senso di comunanza e di solidarietà. E più di 10 anni fa, quando le Torri Gemelle ancora non erano cadute, quando la tecnologia veniva vista con molto più ottimismo di quanto venga vista oggi, si parlava tanto di new economy. Può esistere un modello di economia civile che si coniughi con questa new economy? Sono due slogan un po' diversi, nel senso che per New Economy si intendeva un modello di produzione, distribuzione che non era più fisico, non era più basato su un mercato reale, come poteva essere andare al supermercato piuttosto che in un negozio o comprare un'auto, ma si basava tutto sulla rete, cioè sul modello di internet. Quindi addirittura era la New Economy, sto usando un po' un paradosso, era quell'esasperazione del mercato dove non ci sono neanche più gli scambi interpersonali, che è l'esatto opposto dell'economia civile. L'economia civile ammette che gli scambi avvengano sul mercato, ma riconosce le persone che scambiano sul mercato, perché andiamo a scambiare, qual è il legame che ci lega, proprio nel senso di civis. Ecco, l'economia civile deriva da civis, è il cittadino e insieme l'insieme dei cittadini fanno la civis, che era la comunità. Quindi la new economy era proprio l'esatto opposto del senso di economia civile, dove proprio vengono annullati gli scambi umani perché tutto si scambia su un computer. Viceversa invece l'economia civile è il ritorno, portandolo sempre un po' come figura metaforica, del mercato di prossimità, dello scambio nella mia città, perché conosco gli attori che fanno parte dal contadino piuttosto che dal verduriere e via avanti, e conosco proprio la socialità, la comunità al quale io mi riferisco. Però il termine civile presuppone proprio la città. Può esistere un civile in ambito globale? Si parla di locale ultimamente. Ma attenzione a non associare la città. La civis, da cui deriva l'economia civile, viene da civis, che è singolo cittadino, no? Poi per estensione le relazioni che avvengono tra cittadini, e quindi la civis non tanto come città, ma proprio come comunità di cittadini. È come dire, è la somma dei singoli che porta alla civis, come la somma di un socio porta alla società, la somma di tanti nobili alla nobiltà, la somma di tanti fratelli alla fraternità. In questo è senza confini l'economia civile, come la fratellanza è universale, tutti gli uomini di questa terra siamo fratelli, come tutti i cittadini di questo mondo siamo cittadini. E quindi questo è il nostro auspicio, che non ci si deve chiudere nell'economia del comune, ma della comunanza di valori che ci lega in tutto il mondo. quando si parla di glocale è un riferimento di tecnica industriale, del fatto che si produce all'estero per poi portare però di nuovo il prodotto in Italia. Però diciamo che possiamo insomma pensare a un modello in cui siamo cittadini del mondo prendendoci le nostre responsabilità. È questo, è proprio questo, siamo tutti cittadini del mondo e in questo senso l'economia civile non ha confini, non ha il confine della città, è l'umanità. Grazie professore per essere stato con noi e per averci così dato queste perle anche riguardanti un po' la ricchezza della nostra storia italiana che può imporsi come modello anche nel mondo. Grazie per essere stato con noi. Arrivederci, buongiorno a tutti. Carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima, sempre con il bene di tutti parliamone, e potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it o potete riascoltare le nostre puntate sul nostro sito. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.